6. Ascolta e controlla. 1. Hai visto che bei fiori? Me li hanno regalati gli studenti. 2. Questo è il monumento. Ce ne ha parlato molto il nostro professore di storia dell'arte. 3. Avete già consegnato i documenti alla segretaria? Sì, glieli abbiamo appena consegnati. 4. Scusa, ma Lisetta dove ha trovato tutte queste caramelle? Gliele hanno regalate i nonni. 5. Quanti giorni di ferie hanno concesso a Giorgio? Gliene hanno concessi 6. 6. Il direttore gli ha dato molti incarichi importanti? No, non me ne ha dato nessuno. 7. Puoi consegnare questi documenti a tuo cugino? Sì, posso consegnarglieli domani. 8. Puoi consegnare questi documenti ai tuoi colleghi? Sì, glieli posso consegnare domani.